È in corso una militarizzazione della società? Secondo me sì, più che altro anche della sfera ideale, culturale, chiamiamola come vogliamo. E questo è un passaggio che serve poi alla militarizzazione concreta, all'aumento delle spese militari, alla corsa agli armamenti. Serve in Europa ovviamente perché avendo un'Europa, uno spazio democratico negli stati, più chi meno, però comunque non c'è solo l'autocrate che può dire adesso spendiamo in questo, spendiamo quell'altro, ci armiamo e voi state zitti. Per avere questo tipo di consenso c'è bisogno anche di far slittare alcuni percorsi ideali, culturali, semantici, oltre che mediatici. E io vedo due tendenze: da un lato quella che hai citato tu all'inizio, quella di creare la paura, è molto potente in questo senso, perché ciascuno di noi quando è in una situazione di paura è forzato a fare scelte che magari non farebbe e se le fa andare bene, se le accetta in qualche modo, e dall'altro quello che viene invece definito come un tentativo di convincimento, cioè naturalmente la gran parte dell'opinione pubblica, delle persone, è contro al riarmo, sia per motivi etici che per motivi morali, ma anche perché capisce che non è una soluzione, che non ti dà veramente più sicurezza, e allora c'è il tentativo di blandire queste persone dicendo guardate che voi non avete la cultura della difesa, no? Come si dice, come ormai è in atto da tanto tempo, non avete capito. In realtà siamo noi che abbiamo ragione, e questo è anche è l'altra faccia della medaglia, un tentativo appunto di slittamento in questo senso, per raccontare alla gente che quello che percepisce invece naturalmente ed è giusto, cioè il fatto che non ci si può fidare di una soluzione data dalle armi e dagli interessi che sono dietro le armi, allora gli si dice non hai capito, oppure addirittura come recentemente anche ha coniato la Presidente del Parlamento Europeo, Pino Picerno, abbiamo la difesofobia, è arrivato a dire che c'è una difesofobia nella società civile, nell'opinione pubblica. No, noi non abbiamo paura della difesa, sappiamo che la vera difesa dei diritti, delle persone e anche della sicurezza reale non si porta con le armi, è un'altra cosa. Però in questi anni, mesi, abbiamo visto tante mobilitazioni, manifestazioni oceaniche, c'è stato lo sciopero dei giovani tedeschi contro la leva, la lotta nelle università contro i progetti di sviluppo appunto militare o anche il dual use, quindi insomma una resistenza civile c'è, quindi è per questo che si intensifica questa moral suasion, diciamo così? Esattamente, se la gente fosse veramente convinta, se le persone avessero sottoscritto questo scellerato patto verso il riarmo, non ci sarebbe bisogno di agitare la paura, di cercare di convincere, blandire anche con informazioni che non sono corrette. I media passano continuamente un'idea che l'industria militare sia centrale dal punto di vista economico, quando non lo è residuale, non porta ricchezza, porta solo interessi per qualcuno. E ovviamente c'è anche tutto il tema hai bisogno della cultura della difesa, hai bisogno di questo, hai bisogno di quell'altro. Questo è indicativo, cioè da un lato ovviamente è problematico perché lo si fa anche nascondendo le voci di chi porta un'alternativa concreta, soprattutto ovviamente parlo di media mainstream, non di chi invece fa informazione seria, però è un'indicazione del fatto che ancora, e lo dimostrano molti sondaggi soprattutto nel nostro paese, la gente non si è fatta convincere, non si è fatta abbindolare da questa cosa e quindi si muove. È interessante anche quello che giustamente dici per esempio sulle manifestazioni diffuse e molto forti dei giovani tedeschi, perché quello che si vede anche nei sondaggi è proprio uno stacco molto forte, cioè chi è a favore del riarmo sono le generazioni più anziane, più ricche, più tranquille, quelle che non partiranno eventualmente per una guerra e che però dominano ancora il discorso politico, il discorso pubblico, le decisioni, mentre invece i giovani, che sono quelli che vorrebbero un futuro diverso, non solo in prima persona perché non vogliono andare sotto le armi, ma come prospettiva della loro vita, del loro futuro, è ovvio che vedere un futuro in un mondo in pace sia meglio che vedere un futuro di un mondo in guerra, vengono lasciati un po' in secondo piano, ed è lì che entra l'aspetto, se vogliamo, di moral suasion o paternalistico che abbiamo detto prima, cioè quello del dire ma voi non capite, voi la fate facile. No, quelli che la fanno facile sono coloro che ancora una volta ci dicono che aumentare le spese militari ci porta più sicurezza, quando invece da 25 anni le stiamo aumentando in maniera robusta e il mondo è sempre più in guerra e ovviamente in conflitto. Tu giustamente osservavi che vengono utilizzati e strumentalizzati i concetti di difesa e sicurezza, e i pacifisti, dopo essere stati accusati di essere amici del nemico, ora vengono descritti come ingenui, un po' fricchettoni. Invece una difesa e una sicurezza diversa sono possibili? Assolutamente sì. L'altro elemento di questo slittamento semantico che c'è stato già in passato, perché già 10 anni fa si parlava di missioni di pace, quando invece andavamo con i contingenti militari in giro per il mondo, che un po' si era forzato anche nel momento della pandemia, dove tutto è stato militarizzato nel pensiero, no? Io lo dico sempre questa cosa, mia moglie è medico ospedaliero qui in Lombardia, secondo i media mainstream andava ogni giorno al fronte, andava in trincea, no, andava a curare le persone, che è una cosa completamente diversa che andare in trincea, cioè non bisogna avere sempre il paragone, l'analogia bellica o militaresca. E poi appunto si è intensificato negli ultimi tempi proprio nella direzione anche del chiudere le ipotesi, del banalizzare il discorso, del fare confronti che non hanno senso. Sentivo l'altro giorno il ministro Crosetto dire: ah, mio figlio ha incontrato il bullo, poi le ha prese, ma questo è una cosa interpersonale, non c'entra niente con strutture e sistemi che riguardano paesi addirittura a livello internazionale. Ma c'è proprio una restrizione del concetto, dell'idea, della semantica, come dicevo prima, cioè difesa viene associato a difesa militare, non è scritto da nessuna parte. Anche la nostra Costituzione, che concede, ammette l'uso, la presenza delle forze armate come elemento costituzionale, quando parla della difesa, nell'articolo 52, non parla di difesa militare, parla di difesa tout court, e difesa tout court vuol dire proteggere le persone, proteggere il loro futuro, proteggere i loro diritti. E quindi in questo entrano in gioco tanti altri strumenti che non sono solo quelli delle armi o militari. E noi da tempo, a livello nazionale e internazionale, questo è un elemento secondo me importante e fondamentale dei movimenti per la pace a livello globale, portiamo avanti l'idea di una sicurezza comune, di una sicurezza condivisa, di una sicurezza umana, cioè non una sicurezza per solo pochi, ma per tutti, comune e condivisa, perché quando tutti stiamo bene, tutti ci sentiamo sicuri, aumenta il livello di sicurezza complessivo. Questo succede nelle società umane: se invece c'è una differenza, che sia di ricchezza, che sia di potere o che sia di sicurezza armata, è ovvio che a quel punto nessuno si sente più sicuro, perché chi ha meno armi si sente minacciato, e chi cerca di colmare il gap, e chi ha più armi vuole mantenere la propria prevaricazione. E poi soprattutto un tema di sicurezza umana, cioè cambia la prospettiva e cambiano quindi gli strumenti che si devono mettere in pista se tu consideri che sono le persone, sono le comunità, sono le città, sono le famiglie a dover essere difese e sentirsi sicure, e non gli stati. E invece si tende molto di più a fare il giochetto del risico: la Russia, l'Italia, l'America, la Germania, ma chi è la Germania? Chi è l'Italia? Sono le persone che ci stanno dentro, secondo noi. Non è un concetto di Stato, un concetto di territoriale che è molto vecchio, molto antico, ma che sta tornando in auge perché è molto strumentale a chi vuole aumentare la spesa militare, non per aumentare la sicurezza, ma per aumentare gli affari e il potere di chi trae giovamento da questo. Ecco, quindi vogliamo una cultura della difesa. Cultura della difesa non vuol dire cultura delle armi, ma tutt'altro. Vuol dire alimentare quelli che sono i percorsi di pace positiva, chi davvero ci tengono più sicuri. Recuperiamo anche noi come pace fisti l'idea della sicurezza, ma non in senso di hard security, di sicurezza militare, ma di sicurezza delle persone. E questo credo che convincerà ancora di più l'opinione pubblica che la strada giusta non è quella del riarmo.